Buongiorno, disse Carrie dal suo letto e Grace saltò su e gridò anche lei. Buongiorno, Laura. Buongiorno, disse mamma con un sorriso quando Laura scese in cucina e rientrando col secchio del latte anche papà disse: Buongiorno, scricciolo. Laura non aveva mai notato prima quanto è bello una mattina in cui tutti si augurano il buongiorno e le venne da pensare che qualcosa aveva imparato perfino dalla signora Brewster. Fare colazione tutti insieme fu un piacere. Poi, sempre chiacchierando, Laura e Carrie lavarono i piatti e salirono a rifare i letti. Mentre rimboccavano un lenzuolo, Laura disse: Carrie, ci pensi mai a quanto siamo fortunate ad avere una casa come questa? Carrie la guardò, stupita. Non c'era nulla di particolare in quella stanza: i due letti, le tre scatole sotto lo spiovente dove tenevano le loro cose, e le travi e le assi del tetto. C'era anche il tubo della stufa che saliva da sotto e usciva di sopra sul tetto. Beh, sì, è comoda e confortevole, disse Carrie mentre stendevano la trapunta e la tiravano di qua e di là per rimboccarla bene agli angoli. In verità però non ci penso mai, non esattamente. Aspetta ad andar via di casa e vedrai, disse Laura. Allora sì che ci si pensa. È così brutto fare la maestra? Chiese Carrie sottovoce. Sì, è orribile, rispose Laura in un bisbiglio, ma non devi dirlo a Paima. Sprimacciarono i cuscini, li misero al loro posto e cominciarono a rifare il letto di Laura. Non durerà molto, cercò di consolarla Carrie. Sbottonarono la fodera del pagliericcio e ci cacciarono dentro le braccia per smuovere ben bene la paglia. Magari ti sposi come mamma. Non voglio sposarmi, disse Laura. Con qualche colpetto spianò e lisciò bene la superficie del pagliericcio. Ecco. Prendi la trapunta di sotto. La cosa che desidero di più è restare a casa. Per sempre? Sì, per sempre, disse Laura. E lo pensava davvero. Stesero il lenzuolo. Ma non è possibile. Dovrò continuare a fare la maestra. Rimboccarono le coperte e sprimacciarono il cuscino. I letti erano fatti. Carrie disse che ci pensava lei a spazzare il pavimento. Lo faccio sempre, adesso che non sei a casa. E se vuoi andare a trovare Mary Power, prima vai, prima torni. Voglio solo accertarmi di non restare troppo indietro con lo studio, disse Laura. Di sotto riempì il pentolone del bucato con l'acqua del pozzo. Mentre l'acqua si scaldava sulla stufa, andò da Mary Power. Si era dimenticata che c'era stato un tempo in cui detestava il paese. Ora le parve tutto bello e luminoso. Il sole luccicava nei solchi ghiacciati che i carri avevano tracciato sulla strada e brillava sul bordo brinato del marciapiede di legno. In quei due isolati erano rimasti solo due terreni vuoti. Sul lato occidentale della strada e la facciata di alcune botteghe era stata dipinta di bianco o di grigio. La drogheria di Hawthorne era dipinta di rosso. I bottegai erano usciti tutti intabarrati a grattar via la neve ghiacciata dal tratto di marciapiede davanti alle rispettive botteghe. E per la strada volavano dall'uno all'altro frizzi e lazzi. Si sentivano sbattere porte, galline chiocciare, cavalli nitrire nelle stalle. Prima il signor Fuller, poi il signor Bradley la salutarono levandosi il berretto e dandole il buongiorno. Il signor Bradley disse: Dicono che fa la maestra all'insediamento di Brewster, signorina Ingalls. Laura si sentì improvvisamente adulta. Sì, sono tornata solo per il fine settimana. Bene, i miei migliori auguri allora. La ringrazio, signor Bradley, disse Laura. Il padre di Mary, che faceva il sarto, era già al lavoro. Mary stava aiutando la mamma a fare le faccende di casa nel retrobottega. Guarda chi c'è! Esclamò la signora Power. Come sta la nostra maestra? Molto bene, grazie, disse Laura. Come va a scuola? Ti piace insegnare? Chiese Mary. Beh, mi arrangio, disse Laura, ma preferirei essere a casa. Sarò contenta quando saranno passati questi 2 mesi. Anche noi, disse Mary, a scuola sentiamo tutti la tua mancanza. A Laura fece piacere sentirlo dire, anche voi mi mancate. Nellie Olleson voleva prendere il tuo posto, disse Mary, ma Aida non l'ha voluta accanto. Ha detto che quel posto lo tiene per te per quando torni e il signor Owen l'ha lasciata fare. Perché voleva il mio posto, Nellie Olleson? Cos'ha il suo che non va? Esclamò Laura. Ah, oh, lo sai come Nellie, vuole sempre quello che hanno gli altri. Hai solo questo, Laura. Pensa che accidenti le viene quando le dico che Almanzo Wilder è venuto a prenderti con la sua slitta nuova. Scoppiarono a ridere tutte e due. Non era corretto ridere così di Nelly, pensò Laura, ma non poté farne a meno. Nelly aveva detto a tutti a scuola che sarebbe riuscita a farsi portare a spasso con quei magnifici cavalli, invece non era successo neppure una volta. Non vedo l'ora di farglielo sapere, disse Mary. Non mi sembra una cosa carina da dire, Mary, intervenne la signora Power. Oh, sì, lo so, riconobbe Mary, ma se sapessi com'è odiosa quella Nelly Oleson, sempre a vantarsi e a darsi are e a far dispetti a Laura. E pensare che ora Laura è diventata maestra e che Almanzo Wilder le fa la corte andando a prenderla fin laggiù con la slitta. Ma no, non mi fa la corte, esclamò Laura. Non è così, ma cosa ti viene in mente? È venuto a prendermi per fare un favore a papà. Mary scoppiò a ridere. Deve essergli proprio caro tuo papà, disse divertita. Ma poi vide la faccia di Laura e cambiò tono. Scusami, non lo dico più se ti secca. Non intendevo questo, fece Laura. Quando sei sola o sei a casa tua è tutto così semplice, ma appena sei con gli altri tutto diventa più complicato. Solo non voglio che pensi che il signor Wilder mi fa la corte perché non è così. D'accordo, disse Mary. Non posso fermarmi, disse Laura. Ho messo a scaldare l'acqua per il bucato e ormai sarà pronta. Volevo solo sapere dove siete arrivati a scuola. Mary le fece vedere e Laura constatò soddisfatta che studiando la sera era riuscita a tenersi in pari con i compagni e le compagne. Dopodiché tornò a casa. Fu una giornata felice. Lavò le sue cose, le fece asciugare, le stirò. Come si stava bene a casa. Poi, sempre chiacchierando con mamma e Carrie, disfece il suo bel cappello di velluto, spazzolò bene i pezzi, li stirò e li cucì di nuovo sulla fodera di tela rigida. Poi lo provò. Era tornato come nuovo e le stava perfino meglio di prima. Ebbe ancora giusto il tempo per spazzolare l'abito marrone, passarci sopra la spugna umida e stirarlo, e fu ora di aiutare mamma a preparare la cena. Poi fecero tutti il bagno a turno nella tinozza in cucina, che era la stanza più calda. E andarono a dormire. Se solo potessi vivere così per sempre, pensava Laura spogliandosi, non vorrei nient'altro, ma forse lo apprezzo tanto perché ho solo questi 2 giorni. L'indomani mattina, sole e cielo avevano l'aria quieta di una quieta domenica mattina. Anche il paese aveva l'aspetto placido e silenzioso della domenica. Laura, Carrie, Grace e mamma uscirono con calma di casa. Le faccende erano fatte, i fagioli per pranzo erano in caldo sulla stufa, papà chiuse le ventole, uscì anche lui e girò la chiave nella toppa. Laura e Carrie camminavano davanti, dietro veniva papà e mamma con Grace per mano tra loro. Indossavano gli abiti della domenica e andavano lentamente nell'aria frizzante del mattino, badando a non scivolare sul ghiaccio. Per strada, e poi in fila indiana sul sentierino che attraversava i terreni incolti dietro il magazzino di Fuller, anche tutti gli altri abitanti del paese si stavano dirigendo verso la chiesa. Come fu dentro, Laura corse con lo sguardo tra le file dei banchi già in parte occupati. Eccola Aida! Gli occhi scuri brillarono di gioia quando videro Laura avvicinarsi. Aida si spostò un poco per farle posto accanto a sé e le dette un'amichevole stretta al braccio. Come sono contenta di vederti! Bisbigliò. Quando sei arrivata? Venerdì dopo la scuola. Oggi pomeriggio devo tornare laggiù, disse Laura. Non c'era molto tempo per chiacchierare prima che cominciasse la sessione di catechismo. Ti piace insegnare? Neanche un po', ma non dirlo a nessuno. Comunque per ora me la cavo. Stai tranquilla, promise Aida. Lo sapevo che te la saresti cavata benissimo, ma il tuo posto è così vuoto a scuola. Tornerò, mancano solo 7 settimane. Laura, disse Aida, non ti importa se Nelly Oleson viene a sedersi accanto a me ora che non ci sei, vero? Ma Aida, cominciò Laura, poi capì che l'amica stava scherzando. Certo che no, rispose, prova a chiederglielo, vedrai che viene. Siccome erano in chiesa, dovettero trattenersi dal ridere forte e se ne stettero lì, scosse da una risata silenziosa, cercando di far la faccia compunta. L'avvocato Burns picchiò le nocche sul pulpito per chiedere silenzio. E anche loro si alzarono in piedi, come tutti gli altri, per cantare. Oh, dolce scuola della domenica, che cara mi sei più di ogni altro luogo. Con gioia a te si volge il cuore, con gioia in te trovo una casa. Cantare insieme era ancora più bello che chiacchierare, come le era cara Aida, pensava Laura mentre stava lì con il libro degli inni tra le mani. Qui al mio cuore errante venne mostrata la strada e di me la miglior parte ho trovato in questa casa. Forte e limpida la voce di Laura tenne la nota, mentre accanto a lei saliva di tono quella acuta da soprano di Aida. In questa casa. Poi le loro voci tornarono a fondersi. Con gioia a te si volge il cuore, con gioia in te. Trovo una casa. La lezione di catechismo era la parte più gradevole del culto domenicale, anche se non potevano chiacchierare tra loro, ma solo rispondere alle domande del catechista di turno. Laura e Aida si guardavano, sorridendo, felici di essere insieme, e univano le loro voci nel canto. Quando la lezione finì, ebbero giusto il tempo di dirsi arrivederci. Poi Aida dovette andare a sedersi nel primo banco accanto alla sua mamma adottiva, la signora Brown, per ascoltare uno degli stupidi, noiosissimi sermoni del reverendo Brown. Laura e Carrie andarono accanto a papà, mamma e Grace. Laura badò a imparare bene i versetti del brano del giorno perché papà glieli avrebbe chiesti a casa. Per il resto poteva anche non stare a sentire. Quando era in chiesa, aveva sempre nostalgia di Mary. Mary stava seduta, composta e attenta e curava che anche Laura si comportasse bene. Era strano pensare che erano state tutte e due piccole e che ora Mary frequentava l'università nello Iowa e lei faceva la maestra. Cercò di allontanare il pensiero della signora Brewster e della scuola. Alla fine papà e mamma erano riusciti a mandare Mary all'università e ora lei avrebbe portato a casa 40 dollari. 40 dollari che sarebbero serviti a far frequentare a Mary il secondo anno. Se ce la metti tutta, forse davvero alla fine le cose vanno per il meglio, pensò Laura. E devi mettercela tutta comunque, perché di sicuro niente va per il meglio se stai con le mani in mano. Purché riesca a tenere a bada Clarence per altre 7 settimane, pensò. Carrie le pizzicò il braccio. Si stavano alzando tutti in piedi per cantare l'ultimo Gloria. Era ora di tornare a casa. Come le parve squisito il pranzo di quella domenica. I fagioli erano stufati a puntino, il pane era ottimo e così pure il burro e i cetrioli sott'aceto. Stettero in allegria, chiacchierando e scherzando. Laura disse: "Com'è bello essere qui." "Peccato che la casa di Brewster sia quella che è," disse papà. "Pa, ma io non mi sono lamentata," esclamò Laura sorpresa. "Lo so," disse papà. "Beh, tieni duro, 7 settimane passeranno in fretta e poi tornerai a casa." Che piacere quando ebbe rigovernato disporsi a passare un placido pomeriggio in casa. Il sole entrava a fiotti dai vetri puliti, la stanza era calda e accogliente. Mamma si dondolava dolcemente sulla sua sedia a dondolo. Grace e Carrie guardavano le figure del librone verde di papà intitolato Le meraviglie del mondo animale. Papà leggeva il Pioneer Press a mamma e Laura, seduta alla scrivania, scriveva a Mary. Con la piccola penna di mamma dal manico di madreperla a foggia di piuma d'oca le raccontò della scuola e dei suoi scolari, naturalmente tralasciando tutte le cose sgradevoli. L'orologio ticchettava e di tanto in tanto Kitty si stiracchiava e si metteva a ronfare beata. Quando ebbe finito la lettera, Laura salì a preparare le sue cose, poi portò la sacca di sotto. Doveva essere quasi l'ora di andare, ma papà continuava a leggere il giornale e non ci badava. Mamma guardò l'orologio e disse con garbo: "Charles, forse è meglio che attacchi i cavalli o farete tardi. La strada è lunga tra andare e tornare, viene buio presto." "Oh, non c'è fretta," disse papà girando la pagina. Laura e mamma si scambiarono un'occhiata stupita, guardarono l'orologio e di nuovo papà. Lui non si muoveva, ma aveva una specie di sorriso in mezzo alla barba. Laura tornò a sedersi. L'orologio ticchettava e papà leggeva il giornale in silenzio. Mamma fu lì lì per dire qualcosa un paio di volte e poi cambiò idea. Alla fine, senza alzare gli occhi dal giornale, papà disse: "C'è chi si preoccupa per i miei cavalli." "Charles, hanno qualcosa che non va ai cavalli?" esclamò mamma spaventata. "Beh, non sono più giovani come una volta, questo è certo," disse papà, "ma 12 miglia avanti e indietro potrebbero farle benissimo." "Charles," disse mamma di nuovo sconcertata. Papà mise via il giornale, aveva gli occhi che ridevano. "Ma forse non mi toccherà andare fin laggiù questa sera," disse. Da fuori giunse in quel momento un tintinnio di campanelli. Si fece via via più forte e più limpido finché fu davanti alla porta. Poi cessò. Papà andò ad aprire. "Buonasera, signor Ingalls," disse la voce di Almanzo Wilder. "Sono passato a vedere se Laura gradisce che l'accompagni alla sua scuola." "Perbacco, sono sicuro che sarà ben contenta di andarci con quella slitta," rispose papà. "Beh, si sta facendo tardi e fa troppo freddo per tenere fermi i cavalli senza coprirli," disse Almanzo. "Vado fino in fondo alla strada e ritorno." "Va bene, glielo chiedo io," disse papà, chiudendo la porta mentre il tintinnio si allontanava. "Che dici, Laura?" "Beh, è un divertimento quella slitta," rispose Laura e corse a prepararsi. I campanelli stavano già tornando indietro, ebbe giusto il tempo di salutare che li sentì fermarsi davanti alla porta. "Non dimenticare la sacca," disse mamma, E Laura tornò indietro a prenderla. Grazie, ma arrivederci. Almanzo la aiutò a salire e le rimboccò le coperte tutt'attorno. Prince e Lady scattarono avanti, i campanelli ripresero a tintinare allegramente. Laura tornava a scuola. Tener duro. Quella settimana andò tutto storto, tutto. Non ci fu nulla che desse a Laura il minimo incoraggiamento. Il tempo fu pessimo, un cielo uniforme di basse nuvole grigie copriva la prateria e perfino la neve sembrava diventata grigiastra. Il vento soffiava incessante, monotono, l'aria era umida e fredda, la stufa fumava. La signora Brewster non faceva nulla in casa, non spazzava la neve che il marito portava dentro con le scarpe e attorno alla stufa si erano formate pozzanghere di una fanghiglia mista a cenere. Non rifaceva il letto, non tirava neppure sulle coperte. Due volte al giorno preparava patate e pancetta e li sbatteva sul tavolo. Per il resto del tempo se ne stava a dondolarsi immusonita sulla sua sedia. Non si pettinava neppure più. A Laura parve che Johnny non facesse che frignare e urlare per tutta la settimana. Una volta cercò di farlo giocare, ma lui le si rivoltò contro e la madre le gridò: «Lascialo stare!» Dopo cena il bambino si addormentava sulle ginocchia del signor Brewster, che se ne stava lì immobile per ore senza far nulla. Sembrava che l'aria nella stanza ribollisse per il furibondo silenzio della moglie, ma lui non dava segno di accorgersene. Se ne stava lì, come un bozzo su un pezzo di legno, venne da pensare a Laura. Era un'espressione che aveva sentito usare, ma non ne aveva mai capito bene il senso. Ora era chiaro. Un bozzo su un pezzo di legno non dà fastidio a nessuno, ma non lo puoi smuovere. Quel silenzio era così fragoroso che Laura faceva fatica a studiare. Quando andava a dormire, la signora Brewster inveiva contro il marito. Voleva tornare all'est. Ma Laura non sarebbe riuscita a studiare serenamente comunque. Era troppo preoccupata per la scuola. Nonostante tutti i suoi sforzi, le cose andavano di male in peggio. Cominciò lunedì con Tommy che non seppe sillabare correttamente neppure una delle parole che avrebbe dovuto imparare durante il fine settimana. Subito dopo, la piccola Ruby, che pareva tanto dolce e cara, si mutò in una peste. Laura ne fu così sorpresa che non riuscì neppure a intervenire prima che i due cominciassero ad accapigliarsi. Riuscì a farli smettere solo facendo la voce grossa. Poi diede il libro di ortografia a Tommy e adesso studia quello che avresti dovuto imparare a casa. Ti interrogo di nuovo durante l'intervallo. Il giorno dopo fu Ruby a non sapere la lezione. Quando Laura la chiamò, venne avanti con le mani dietro la schiena e l'aria innocente da agnellino dicendo: «Non ho potuto studiare, maestra, perché lei ha dato il libro a Tommy». Laura ebbe la presenza di spirito di contare fino a 10 prima di rispondere, poi disse: «Sì, l'ho dato a lui. Bene, allora adesso vi sedete vicini e studiate insieme». Non erano arrivati alla stessa lezione del libro, ma potevano tenerlo aperto su due pagine diverse. Bastava che stessero piegati uno di qua e l'altra di là, appoggiandosi sul banco, e ognuno poteva guardare la sua pagina. Anche lei e Mary avevano sempre fatto così, quando studiavano cose diverse sullo stesso libro. Ma Tommy e Ruby non ne volevano sapere, se ne stettero lì a lottare in silenzio per aprire il più possibile il libro, ognuno alla propria pagina. Laura dovette richiamarli più e più volte: «Tommy! Ruby!» Ma nessuno dei due imparò nulla quel giorno. Marta non sapeva più far di conto, Charles fissava stolidamente fuori dalla finestra, dove non c'era altro da vedere che il grigio del cielo, e quando Laura gli ingiunse di guardare il libro, lui obbedì, ma era chiaro che non metteva a fuoco un bel niente e pensava ai fatti suoi. Lei era troppo piccola, troppo giovane. Quando venne il momento di interrogare Marta, Charles e Clarence, si rese conto che non ce l'avrebbe mai fatta. Non era riuscita a interessarli minimamente, né alla storia né alla geografia. Lunedì Clarence seppe rispondere a qualche domanda di storia, ma quando Laura gli chiese quando erano stati fondati i primi insediamenti in Virginia, rispose con noncuranza: «Ah, quella parte non l'ho studiata». «E perché?» chiese Laura. «Era troppo lunga», rispose Clarence con un'occhiata ironica che voleva dire: «Voglio proprio vedere ora che farai». Laura stava per spazientirsi, ma quando i loro occhi si incrociarono, vide che Clarence aspettava solo quello. «Che fare?» Dargli una bacchettata non poteva, lui era molto più grande e più forte di lei. Intanto non doveva lasciar trapelare l'irritazione. Restò impassibile per qualche istante, sfogliando le pagine del libro e cercando disperatamente una soluzione. Si sentiva prendere dallo scoramento, ma non doveva darlo a vedere. Alla fine disse: «Peccato che tu non abbia studiato quella parte, perché ora ti toccherà studiare due lezioni insieme per stare al passo con Marta e Charles». Fece ripetere la lezione agli altri due, poi assegnò la successiva a tutti e tre. L'indomani Clarence non rispose neppure a una domanda. «Non so che farci», disse. «Era una lezione troppo lunga». «Se non vuoi imparare niente, Clarence, peggio per te», disse Laura. Continuò a fare domande anche a lui, come agli altri due, sperando che si vergognasse di rispondere sempre «non lo so», ma non ci fu verso. Più il tempo passava, più lei si sentiva inadeguata. No, non era in grado di fare la maestra. Quella sua prima esperienza sarebbe stata un fallimento. Così non avrebbe mai preso il diploma finale, non sarebbe stata in grado di guadagnare dei soldi, e Mary avrebbe dovuto lasciare l'università e sarebbe stata colpa sua. Non riusciva neppure più a studiare per restare in pari coi compagni, benché ci si dedicasse non solo la sera, ma anche a scuola, durante l'intervallo e nell'ora di pranzo. Quando fosse tornata a casa, si sarebbe trovata indietro rispetto al resto della sua classe. Il vero problema era Clarence. Era il fratello maggiore di Tommy e Ruby. Se avesse voluto, avrebbe potuto farli rigare dritti tutti e due. Avrebbe anche potuto studiare tutto alla perfezione. Era molto più sveglio di Martha e Charles. O se fosse stata abbastanza grande e forte lei da potergli dare la bacchettata che meritava. La settimana si trascinò stancamente. Fu la settimana più lunga e disperante che Laura avesse mai affrontato in vita sua. Giovedì, quando disse «La terza di aritmetica venga alla cattedra», Clarence scattò in piedi. Charles si tirò su con indolenza e Martha fece per alzarsi. Poi gridò «Ai!» e ricadde a sedere come se l'avessero tirata indietro di colpo. Clarence le aveva inchiodato la treccia sul banco col coltello. Era stato così abile e silenzioso che Martha non se n'era accorta fino al momento di alzarsi. «Clarence!» esclamò Laura. Lui si era messo a ridere e non le badò. Ridevano anche Tommy e Ruby e perfino Charles aveva l'aria divertita. Martha si era fatta tutta rossa e aveva le lacrime agli occhi. Laura si sgomentò. Li aveva tutti contro e non riusciva a tenerli. Ma perché erano maldisposti nei suoi confronti? Le venne in mente la signorina Wilder, la maestra che non era riuscita a farsi rispettare da loro in paese. Ecco cosa deve aver provato anche lei, pensò. Poi di colpo le montò dentro un'ondata di rabbia. Strappò via il coltello e lo richiuse stringendo il pugno. Vergognati, disse a Clarence. E per la prima volta non si sentì affatto più piccola e più debole di lui. Clarence smise di ridere, tacquero anche gli altri. Laura tornò al suo posto e picchiò le nocche sul tavolo. «La terza di aritmetica, venga alla cattedra!» disse di nuovo. I tre non avevano studiato nulla e non seppero rispondere alle domande, ma quantomeno fecero mostra di provarci. Laura si sentiva grande e terribile e loro avevano preso un'aria docile e mite e alla fine disse «Domani porterete la stessa lezione, per oggi abbiamo finito». Aveva mal di testa. Tornando nell'odiosa casa dei Brewster, pensava che non poteva essere sempre arrabbiata e che la disciplina non serviva a niente se non riusciva anche a indurre i suoi allievi a studiare. Ruby e Tommy erano molto indietro in ortografia. Martha non sapeva neppure le nozioni più elementari di grammatica e non aveva imparato le frazioni. Clarence non studiava storia e lei poteva solo sperare che l'indomani le cose andassero un po' meglio. Venerdì fu una giornata quieta. Erano tutti apatici e indifferenti, non aspettavano altro che la settimana finisse. E lei anche. Le lancette dell'orologio non le erano mai parse così lente. Nel pomeriggio le nuvole cominciarono a diradarsi e l'aria rischiarò. Poco prima delle 4, un pallido raggio di sole corse da occidente sulla prateria innevata. Poi Laura sentì un lontano tintinnio di campanelli. «Potete mettere via i libri», disse. Quell'orribile settimana era terminata finalmente. Ormai non poteva più succedere nient'altro di brutto. Potete andare. Il tintinnio si fece più forte e più distinto, e quando Prince e Lady passarono davanti alla finestra coi loro campanelli che danzavano al ritmo del trotto, Laura era pronta. Prese i libri e il secchiello del pranzo, e fu in quel momento che accadde il peggio che poteva capitare. Clarence aprì la porta, mise dentro la testa e gridò con quanto fiato aveva in gola: È arrivato il bello della maestra! Almanzo Wilder doveva aver sentito, per forza. Come avrebbe osato guardarlo in faccia ora? Che poteva dire? Come spiegargli che lei non aveva mai in nessun modo dato motivo a Clarence di dire una cosa simile? Lui era lì ad aspettarla al freddo e i cavalli non erano coperti, doveva andare. Le parve che sorridesse, ma non osò guardarlo. Lui le rimboccò le coperte attorno e disse: Comoda? Sì, grazie, rispose Laura. I cavalli scattarono, i campanelli presero a tintinnare allegramente. Meglio non dire nulla di Clarence, pensò Laura. Come diceva sempre mamma, meno parli e più presto ci metti una toppa.